Articolo 1. Siamo tutti liberi ed uguali. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Era il 10 dicembre del 1948, quando gli stati membri delle allora neonate Nazioni Unite, memori delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale, adottarono la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In 30 articoli vengono declinati i valori universali che tutelano la libertà e la dignità di tutti gli esseri umani. Sono diritti che troppe volte diamo per scontati e che troppo spesso mostrano le loro fragilità, venendo calpestati, mortificati, dimenticati. Non tutti hanno una nazionalità. Non tutti hanno diritto ad un matrimonio e una famiglia. A molti bambini viene negato il diritto al gioco o all'istruzione, e a molti adulti viene negato il diritto al lavoro, ad una casa. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. È l'articolo 29, la responsabilità della promozione e della tutela di questi diritti è di ognuno di noi. Testo tratto dalla celebrazione per la Giornata Internazionale dei Diritti Umani. Titolo: Uomo in mare. È uno scenario quotidiano che si rinnova da decenni, conseguenza perversa della globalizzazione e dello scambio ineguale, della nuova divisione internazionale del lavoro e della subordinazione economica e commerciale dei paesi poveri alle grandi potenze. L'esito ultimo di questi processi sono i flussi migratori che percorrono tutte le rotte dal sud verso nord e che interessano l'Africa, il Medio Oriente e i Balcani. Qui, nel Mare Nostrum, quei flussi si addensano, precipitano, si inabissano in una strage continua di cui ignoriamo i numeri reali. E sempre qui si gioca una partita capitale intorno alla tutela della vita umana. Da sempre, da quando quel grido «Uomo in mare!» echeggiò per la prima volta, l'accorrere in aiuto, il prestare soccorso, l'offrire salvezza, è stato considerato sentimento naturale e legge universale, principio assoluto e diritto-dovere fondamentale. Il mutuo soccorso è stato il primo legame sociale e la base della reciprocità nelle relazioni tra gli esseri umani. Il mutuo soccorso costituisce il passaggio da individuo a soggetto sociale, a membro di una comunità. Da qui nasce il diritto al soccorso come istanza primaria di tutela della vita nelle costituzioni e nelle convenzioni internazionali e quale fondamento di tutti gli altri diritti. Oggi, tutto ciò rischia di essere mortificato e compresso, se non direttamente negato, in nome della sicurezza dei confini esterni e della difesa dall'invasione delle moltitudini povere. La protezione delle frontiere meridionali dell'Europa diventa il valore supremo, in nome del quale si arriva a sospendere quello che si pensava fosse un diritto irrinunciabile. Questo ha indotto le ONG che operano in mare, Open Arms, Sea Watch, Mediterranea, SOS Mediterranee, Medici Senza Frontiere, Emergency, Rescue, a promuovere un comitato per il diritto al soccorso che svolga una funzione di tutela morale dell'attività di salvataggio e un'opera di difesa giuridica informata e autorevole e che contribuisca al formarsi nell'opinione pubblica italiana ed europea di un costante orientamento di sostegno all'attività di salvataggio in mare, che solleciti e accompagni il ripristino di un efficace sistema istituzionale di ricerca e soccorso. Un sistema che veda coinvolti quanti operano nel Mediterraneo, navi mercantili e pescherecci compresi, insieme alle imbarcazioni delle ONG e a quelle della Guardia Costiera, nella prospettiva che siano gli stati e le loro strutture, come vuole il diritto internazionale, ad assumere interamente quel compito. E ciò al fine di affermare, ancora una volta, il senso di una condivisa responsabilità universale che fonda il diritto al soccorso e l'intero sistema dei diritti umani. Voglio diventare un barcone, vedere, capire e sentire il peso di chi porto e imparare a non capovolgermi mai. Voglio diventare un politico europeo, italiano, siriano o libico e salire su quel barcone, fare lo stesso tragitto al contrario e non perché mi obbliga qualcuno o mi manda alla deriva a morire così imparo, ma per imparare da solo a capire cosa vuol dire e cosa è quel tragitto. Forse è quello che manca per inventare una nuova legge o decidere di fare qualcosa usando il veramente. Voglio diventare un bagnino e mettermi sulla riva coi binocoli per scrutare se c'è qualcuno da salvare in mare, poi voglio girarmi e vedere se sulla terra anche c'è qualcuno da salvare da quelle onde alte della politica che annegano gli uomini e le loro decisioni prese da troppo lontano a certo vicino. Voglio diventare un numero di vittime e cambiarmi, diventare più piccolo, avvicinarmi allo zero. Voglio diventare un giornalista e piangere o pregare prima di parlare o informare senza sentirmi accusare di non saper fare il mio mestiere, di non saper contenere il dolore, di non essere composto davanti ai corpi in decomposizione. Voglio diventare un'accusa e assaporare la mia eventuale indifferenza, accidia, incompetenza. Voglio diventare un innocente e avere qualcosa d'altro da raccontare. Voglio diventare una vergogna e provarmi. Poi sentire cosa sentono quelli che mi provano o non riescono a provarmi. Voglio diventare sabbia, almeno per sopportare i chili di morti che si appoggiano a me, almeno per la fine. Voglio diventare un sub per vedere se c'è qualcosa sotto quei natanti, cosa c'è sotto l'Europa, sotto gli uomini, cosa c'è in fondo alla morte. Voglio diventare un centro d'accoglienza e trasformarmi in un posto dove si sta bene, bene. Voglio diventare un euro per chiamare tutti gli altri euro possibili e servire a chi servo, non a chi parla di cosa serve. Voglio diventare un papa e cominciare a predicare senza essere accusato di predicare i fedeli della civiltà sovrumana. Voglio diventare una colpa e darmi un nuovo senso. Voglio diventare un senso e aggiungerlo ai primi sei. Voglio diventare una paura e passare. Voglio essere una guerra e scoprire come mai mi moltiplico e perché credo in me eternamente. Voglio vedere e conoscere tutte le persone con cui stare, non solo quei popoli da conquistare, invadere o sfruttare. Voglio diventare. Avete ascoltato Ogni mano è uguale. Redazione e testi Giulio Escalona. Tecnico audio Tony Lyon. Voce narrante Rosanna Salati. Potete ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante sul sito www.stranieriincampania.it o seguirci sulla nostra pagina Facebook. RAM, ascolta il mondo con occhi diversi. Arrivederci alla prossima puntata.